sorriso, oh, il tuo cuore. Mi stanno parlando, ma non capisco. Volevo darti qualcosa di me. Cerco parole, modi di fare tutto ciò che...